Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Alle 17:09 minuti inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana e i temi di questa giornata economica come finanziaria, ma anche, come facciamo spesso il venerdì, i temi principali di questa settimana economico-finanziaria. Vi dico già che ragioneremo alla luce dei dati Union Camere con cui abbiamo aperto la settimana, no? Il rischio, se non distruzione, impoverimento del sistema produttivo italiano, del sistema manifatturiero italiano, il rischio che il paesaggio economico e industriale di questo paese alla fine di questa crisi risulti profondamente modificato nella sua morfologia produttiva, chiamiamola così, rischio denunciato da più parti, e questa settimana ce ne siamo occupati per via del rapporto Union Camere, ma anche dell'assemblea dell'ABI, il rapporto tra banche e mondo delle imprese, la negazione da parte dell'ABI, del suo presidente Patuelli, che vi sia un vero credit crunch, una restrizione del credito. Ma ne parleremo anche perché da questo punto di vista gli appelli arrivati da Confindustria al governo sono stati anche questa settimana molto insistiti. Mettere l'impresa al centro delle politiche economiche, quindi le politiche industriali, perché è l'impresa che poi genera e crea occupazione, in una settimana in cui, devo dire, la politica si è occupata anche e soprattutto di altro che non fosse, diciamo, il problema occupazionale e produttivo del paese. Ma tant'è, molto si dibatte di IMU e di IVA, va benissimo, un po' meno si dibatte di quali iniziative concrete prendere a favore delle, soprattutto delle piccole e medie imprese. Questo è un tema che affronteremo nella seconda parte del programma. In apertura invece il dato di oggi dell'Istat sull'inflazione. Allora, l'inflazione a giugno ha fatto un più 0,3% rispetto a maggio, rispetto all'anno prima i prezzi al consumo sono cresciuti dell'1,2%, un livello bassissimo, un livello che, se leviamo alcune voci energia ma anche e soprattutto alimentare, vuol dire che la maggior parte dei beni al consumo sono in deflazione, cioè hanno variazioni vicine allo zero o sotto lo zero. Però c'è un però, perché se poi guardiamo le varie voci, oggi si scopre che la frutta fresca, guarda caso d'estate, la frutta fresca, che coincidenza, ha fatto più 7% rispetto a maggio, non rispetto a un anno prima, rispetto al mese prima. E guarda caso, a giugno, quando uno con la testa, se non col portafoglio, almeno con la testa, pensa alle vacanze, i pacchetti vacanze in questo paese hanno fatto più 13% nei prezzi, sempre rispetto a maggio. Sono coincidenze, tanto sappiamo tutti che d'estate uno non tende a non mangiare frutta fresca e a non andare in vacanza, tende a farlo di solito a novembre o magari a febbraio. Ancora di questo parleremo, anche perché i pacchetti vacanza che sono più aumentati, e lo dico perché poi quando parliamo con il mondo del turismo va tutto bene, ma occorre anche mettersi una mano sulla coscienza, sono quelli sul mercato interno, cioè quelli per chi va in vacanza in Italia, più 13% quasi, mentre quelli per i viaggi all'estero hanno fatto più 7%. Per cui in aumento forte anche i trasporti, gli aerei hanno fatto quasi più 6% rispetto a maggio e più 16% i biglietti aerei rispetto a un anno prima. Anche questo, sappiamo che d'estate uno l'aereo non lo prende, quindi sarà una coincidenza. Traghetti più 13%. La buona notizia sul fronte dei trasporti arriva dai treni, hanno avuto un calo e sono comunque però in aumento del 3% rispetto a un anno prima. Di questo parleremo. Ultimo, no, perché poi giustamente il mondo del turismo si straccia le vesti, ha ragione. Oggi Union Camere ha fatto sapere che ci saranno 4 milioni di italiani in meno in vacanza nel 2012, 23 milioni e 400 mila italiani, rapporto Union Camere ISNART, sono 4 appunto milioni in meno rispetto all'anno prima. Strano, magari andranno in vacanza a novembre, quando certi prezzi non aumentano. Dicevo, parleremo anche di questo, e poi come sempre della borsa e della vicenda Deutsche Bank, gli attivi bancari. Perché? Perché la Deutsche Bank avrebbe per anni, a partire dal 2008, io non ci posso credere, perché i tedeschi che ci danno lezioni di rigore e di morale da 4 anni, insomma, attenzione, a partire dal 2008 avrebbe concesso credito ad altre banche in forme definibili come opache, al fine di nascondere al mercato i rischi impliciti. E in tutto questo sarebbe venuto fuori bilancio, cioè per non appesantire l'attività della banca. È uno scoop della Bloomberg. Spiccano i finanziamenti al Monte dei Paschi e al Banco do Brasil per complessivi 2 miliardi e mezzo, ma anche ad Exia, altro gruppo fallito e salvato dallo Stato francese e belga, e anche alla National Bank of Greece e all'Hellenic Post Bank. Ma come? Avete presto soldi ai greci, al Banco do Brasil, agli italiani? Mamma mia, tutti fuori bilancio? Conforme opache, incredibile. Comunque la massa delle attività fuori bilancio di Deutsche Bank sarebbe di quasi 400 miliardi, pari al 20% dell'intero attivo della banca. Anche di questo parleremo. Andiamo subito con la notizia in breve, partendo dalla borsa. Allora, la borsa è negativa perché qui c'è un'altra notizia che pesa su Milano: lo spread è tornato a 300 punti, cioè quindi quanto costa noi indebitarci a 10 anni col BTP a 10 anni rispetto a quanto non costi alla Germania, la differenza è tornata a 3 punti percentuali. C'è poi stato un calo sotto i 300 punti, 294, ci sono vari motivi, in realtà pesa oggi soprattutto il rischio Portogallo, la crisi politica in Portogallo è entrata in una nuova fase virulenta, potrebbe far scivolare il paese in una spirale negativa, ma pesa anche comunque la posizione italiana con prospettive economiche molto molto deboli. Intanto, dicevo, la borsa meno 1,50% Milano è decisamente la peggiore tra le principali borse europee. Parigi perde lo 0,30, Londra è invariata, Francoforte più 0,70 e l'America guadagna lo 0,12%. Euro su dollaro a quota 1,3056, da noi va bene ST Microelectronics più 3%, Parmalat più 0,90, Eni più 0,50 come Fiat, Saipem più 0,30. Calano i bancari, ma non solo, perché Telecom Italia perde il 4,55, Enel il 4,40, Atlantia il 3,40 e Enel Green Power il 3,30. Il 3,30 lo perde anche la Popolare di Milano, il 3% Fondieri Assai, il 2,70 Finmeccanica, ma anche Exor e la Popolare Emilia Romagna, il 2,60 il calo di Mediobanca e di Autogrill, il 2,5 quello di Pirelli e di Assorin, il 2,30 quello di Terna e del Banco Popolare, Intesa San Paolo meno 2,1 come Snam Rete Gas, o solo Snam come si chiama adesso. Ultima notizia riguarda un altro tema di questa settimana, dopo l'acquisizione da parte del gruppo Louis Vuitton Moët&Cie, quindi Bernard Arnault, della Loro Piana, 2 miliardi e mezzo per l'80% di Loro Piana. Dicevo, la polemica, il dibattito, stiamo svendendo i nostri marchi migliori, non abbiamo massa critica sufficiente, grandi gruppi sufficienti per tenere in Italia i marchi più prestigiosi, che poi finiscono nei colossi mondiali, perché questo richiede poi la globalizzazione. E la risposta opposta invece: ci lamentiamo sempre che arrivino pochi stranieri a investire in Italia, una volta che lo fanno piangiamo anche per questo. Allora, ieri c'è stato un altro caso per Nigotti, l'abbiamo raccontato, oggi, la cito, la Cavit, che è la cooperativa dei produttori vinicoli trentini, la principale, rappresenta il 60% della produzione di vino in Trentino, ha confermato di aver comprato la quota della maggioranza della tedesca Kessler, che è una storica cantina della regione del Baden-Württemberg. Cavit ha un fatturato di 150 milioni di euro, non è dato a conoscere la cifra, ma faccio notare che un'altra notizia simile è arrivata ieri in serata, quando la Diadora, oggi lo leggete su molti giornali, è tornata ad essere un'azienda tutta italiana. perché la società trevigiana, che è controllata interamente dalla LIR, la finanziaria della famiglia Moretti Polegatto, ha acquistato per 9 milioni e 200 mila dollari marchi Diadora per Cina, Hong Kong e Macao, che erano ancora detenuti da Win Hanverky, un gruppo industriale quotato a Hong Kong. Per cui anche la Diadora cinese a Hong Kong e Macao torna a essere italiana. Detto questo, io adesso vorrei, mentre il gianduiotto Pernigotto diventa turco nella famiglia turca Toksoz, e anche da questi passaggi che si capisce dove si sta creando nuova ricchezza nel mondo. Da anni raccontiamo di una Turchia che è arrivata a crescere al 5, al 7% come PIL. Detto questo, il gruppo Toksoz è uno dei principali gruppi privati in Turchia, fattura 450 milioni di euro, va dall'alimentare dolciario al farmaceutico all'energetico. Detto questo, avrei voluto occuparmi di subito di inflazione. Come qualcuno di voi avrà notato, è un po' che cerchiamo di non di preservare la bile degli ascoltatori, cercando di non raccontare più o raccontare meno gli sprechi della nostra pubblica amministrazione, i costi della politica, anche e soprattutto regionale. È stato uno sforzo, è uno sforzo che delle volte diventa vano, perché quando leggi certe cose io proprio non ce la faccio a non, così faccio anche la rima, uno sforzo che diventa vano quando leggo certe cose non ce la faccio a richiamare Rino Gaetano. Abbassare tutte le regole più, la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blu, drag e più. Sì, non ce la faccio, perché qui abbiamo la Gross Coalition, la coalizione che mette assieme centrodestra e centrosinistra anche nei rimborsi per le spese dei gruppi consiliari. Perché? Perché adesso leggerò due cose che mettono assieme la Lombardia e l'Emilia-Romagna, quindi l'Assemblea regionale lombarda e quella emiliana. La Corte dei Conti Lombarda, infatti, ha notificato ieri a 7 consiglieri regionali della Lombardia, della passata legislatura, va precisato, 7 nuovi inviti, dando quindi la possibilità di presentare altri giustificativi o nuove osservazioni per difendersi dalle accuse a loro carico. I consiglieri in questione facevano parte dei gruppi PDL, sono Guido Boscagli, Paolo Valentini, Antonella Maiolo, Giovanni Bordoni e Lega, Ennio Moretti, Massimiliano Orsatti e Angelo Ciacca. Allora, Paolo Valentini, all'epoca anche capogruppo del PDL, ha ottenuto rimborsi per quasi 200.000 euro, considerati illegittimi questi 200.000 euro dalla procura contabile. Troppi ristoranti e pranzi, alcuni del tutto singolari, non lo dice chi parla, lo dice la Corte dei Conti, come il pasto per due con bottiglie di vino Gaia, che per chi non lo sapesse sono dei vini più cari d'Italia, e champagne Boulanger. Il leghista invece Ennio Moretti beveva champagne e mangiava ostriche sempre in due, alla modica cifra di 240 euro in due in un ristorante bresciano. L'ex assessore milanese Massimiliano Orsatti ha chiesto rimborsi anche per le patatine del Burger King, però lui è un mito, perché voglio dire, allora ha rischiato di venire fuori uno scandalo in Gran Bretagna, perché il cancelliere dello scacchiere, se non ricordo male, il cancelliere dello scacchiere è stato ripreso, o era direttamente Cameron, adesso lo verifichiamo, 2 settimane fa, a mangiare un hamburger nel suo ufficio, e gli hanno fatto una cosa tanta, perché hanno detto ha comprato l'hamburger più caro che c'è a Londra, costava qualcosa come 8 pound, polemica su tutti i tabloid. Ma noi andiamo oltre, che noi ci facciamo rimborsare anche le patatine del Burger King, la pizza da sporto e molti libri fondamentali, tra cui uno di ricette. Ma che te serve il libro di ricette se vai al Burger King? Non si capisce. Comunque, il leghista Angelo Ciocca si distingue per le strenne natalizie. Potevate darmi anche Jingle Bell, non ci ho pensato. 18.000 messaggi di auguri e 2.000 calendari. la cui spedizione, perché io rido per non piangere, è costata alla Regione Lombardia 8.000 euro, che voi direte non sono granché, ho capito, ma diamoli in qualche altro modo, no? E poi al PDLino Giulio Boscagli conta i stati 16.000 euro di rimborsi. Per quello che riguarda invece la Regione Emilia-Romagna, la Corte dei Conti, in questo caso emiliana, punta nuovamente il dito contro l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna perché ritiene che nel 2012 1.800.000 euro a disposizione dei gruppi assembleari siano stati spesi in modo irregolare. Tutti i gruppi sono rientrati nell'ente della Corte dei Conti. Le contestazioni sono solo per determinate tipologie di spesa, però, per esempio rimborsi, consulenze per cui mancano i giustificativi e le pezze d'appoggio, come si chiama in gergo. Gli importi contestati, signori e signore, sono di 673.000 euro per il Partito Democratico, di 390.000 euro per il PDL, di 193.000 euro per la Lega Nord, di 150.000 euro per l'Italia dei Valori, di 126.000 euro per SEL, di 98.000 euro per il Gruppo Misto, 90.000 euro per la Federazione della Sinistra, 87.000 euro per il Movimento 5 Stelle e 48.000 euro per l'UDC. Secondo i magistrati della Corte dei Conti emiliana, sono da considerarsi irregolari, per esempio, le spese per i servizi, affitto di location, in assenza di comprovata indisponibilità di un corrispondente servizio o struttura messa a disposizione dei gruppi e dei consiglieri da parte della regione. Tradotto, tu non puoi affittare una sala per un tuo convegno se c'è una sala analoga che hai a disposizione nel palazzo della regione o in strutture regionali, perché il sospetto è che tu non stia facendo la scelta più efficiente ed efficace. Comunque, uno speciale applauso era il ministro del tesoro Osborne. E l'hamburger, cito il caso di prima, costava 10 pound, 10 sterline, e gli hanno veramente, lo hanno aperto in tutti i modi in Gran Bretagna. Un applauso va obiettivamente, anche perché l'importo è minimo, quindi glielo possiamo dare l'applauso, all'ex assessore milanese Massimiliano Orsatti, che si è fatto rimborsare le patatine del Burger King, la pizza da sport e il libro delle ricette. Vai Orsatti! Ragione a chi dice magari col Mac Menu le risparmiate, però era Burger King, quindi non posso neanche dire questa cosa. Almeno ho dato un colpo al Burger, un colpo a McDonald's, le patatine non erano maxi, lo so, però insomma, a parte il fatto che sono anche preoccupato, insomma. 18.000 messaggi d'auguri, ma come fa ad avere 18.000 amici? Ma neanche noi su Facebook. Voglio diventare amico del leghista Angelo Ciocca, 18.000 e 2.000 calendari. No, perché voglio dire, tutto bene, uno se li può anche pagare, però a questo punto non caricare 8.000 euro alla regione. Vabbè, dai. Mentre c'è questo mondo, c'è un altro mondo che si confronta con rincari strani a cui facevo riferimento, i dati di oggi sull'inflazione. Inflazione non c'è, di fatto, più 1,2% rispetto a un anno fa, non c'è inflazione. Per alcuni beni evidentemente siamo in deflazione, quindi il prezzo cala, ma stranamente i beni più utili, o meglio, più acquistati in questo periodo, frutta fresca, fa caldo, frutta fresca, e infatti frutta fresca più 13%. Uno vuole andare in vacanza, cerca di andare in vacanza in Italia per risparmiare, giustamente, pacchetto vacanze in Italia più 13, la frutta fresca ha fatto più 7% solo rispetto a maggio. Dottoressa Flavia Coccia, direttore operativo dell'ISNART, che è l'Istituto Nazionale di Ricerche Turistiche, lei è anche membro del Comitato Tecnico del Dipartimento per la Competitività e Sviluppo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, adesso mi fa l'analisi sul pacchetto turistico, perché voi avete fatto una stima oggi di 4 milioni di italiani in meno in vacanza. Sì. Però, da donna che va in vacanza, sì, è anche mamma? Sì. Ecco, mamma. Adesso, mi dica una cosa, ma lei quando legge che la frutta fresca ha fatto più 7% rispetto a maggio, i pacchetti vacanza più 13%, non si sente un po' presa per i fondelli? Sì, beh, effettivamente sì. Sui pacchetti di vacanza poi le variabili sono talmente tante che sono veramente anche strani, perché in realtà quando andiamo a vedere poi i prezzi dei singoli alberghi in Italia stanno anche calando, quindi questi pacchetti di vacanza bisogna vedere chi è che li sta gonfiando. Peraltro c'è un ragionamento da fare sui pacchetti vacanza che non riguarda le agenzie di viaggio, ma riguarda le grandi agenzie che fanno intermediazione, ad esempio sul web, che sono quelle famose, dei grandi portali, che non voglio fare pubblicità per nessuno. Ecco, loro stanno effettivamente sfruttando tantissimo la situazione in Italia, applicano delle percentuali di ricarico e di convenienze, cioè voglio dire di fee che gli alberghi devono pagare sulle camere e sul museo loro, che sono quasi incredibili. Ma si parla dal 18% al 25%. No, me la rispieghi un attimo questa, cioè lei dice non sono le strutture piccole, ma i grandi tour operator, non ho capito. Esatto, sì. Esattamente, è quello che sta succedendo, perché l'Italia non ha intanto grandi tour operator che gestiscono il sistema di intermediazione. Mm-hmm. Quindi siamo in mano agli gruppi stranieri. Agli stranieri, giusto. Esattamente. Che succede? Che chi compra un pacchetto vacanza su un tour operator straniero, intanto le tasse le pagano in quegli altri paesi, e a noi di fiscalità da questa parte, da queste cose non ci arriva assolutamente nulla. Mm-hmm. E l'albergo, ad esempio, che offre una camera tramite questi grandi gruppi che sembrano far risparmiare molti consumatori, sulla tariffa che il consumatore paga, l'albergo guadagna ancora il 25% in meno, che va a questi gruppi. E su quel 25% in meno di guadagno per questi, le tasse non vengono pagate in Italia, ma nei paesi di provenienza, di sede di questi grandi gruppi. Per cui è, ma questo, mi scusi, se ho capito bene, questo vale anche se io come italiano volessi comprare un pacchetto in Italia, finisco comunque in un'offerta... Questo mi fa impazzire. Esatto. Cioè la mancanza di grandi tour operator italiani fa sì che la gestione dei grandi pacchetti vacanze, anche Italia su Italia, anche per un italiano che vuole andare in vacanza in Italia, passi dall'estero. Quindi il fisco, poi resta le tasse che pago, le pago all'estero, perché il gruppo poi fa utili in quel paese. E hanno un potere, diciamo, contrattuale così forte... Esatto. Da imporre anche prezzi più alti, se ho capito il suo ragionamento. Esattamente così. Mm-hmm. Cioè lo giocano loro come vogliono, così può pagare un pacchetto di vacanze costa di più, ad esempio perché magari preferiscono vendere altre mete, perché noi subiamo anche il fatto che molti tour operator internazionali invece di vendere l'Italia vendono altre mete, dove hanno rincari ancora più forti e quindi ci guadagnano di più. Quindi in realtà in questo momento siamo un paese debole, stiamo subendo anche dei quasi, non dico attacchi speculativi sul turismo, però quasi. Quindi lei dice siamo sotto scacco, tra virgolette, sì. Da parte. Allora, però voi avete dato anche una stima sugli italiani in vacanza. Sì, sì. C'è una cosa che mi sfugge però nel suo ragionamento, dottoressa. Uh-huh. Perché invece i pacchetti vacanza all'estero sono aumentati solo del 6,9%? Ma questo qui, questo dice l'Istat. Dice l'Istat, sì. Adesso la reazione di Istat, perché non so, perché per lo stesso argomento che dicevo io, se io l'Italia voglio vendere meno e riesco a venderla con un aumento di prezzo, il tour operator fa un aumento di prezzo. L'estero invece che gioca sulla l'estero invece riesce a fare dei guadagni vendendola a prezzi più bassi, quindi a questo punto rincara di meno. Mm-hmm. Sì, ho capito. È una logica di profitto. Se io so che l'Italia è una meta molto ricercata dagli stessi italiani, perché calcolo che tipo, il 60% dei flussi nel totale dell'anno sono italiani, d'estate arriviamo al 70-80% che scelgono l'Italia, a quel punto io applico una convenienza maggiore e quindi aumento il prezzo perché c'è maggiore domanda. Questa legge del mercato è molto semplice. Sì, no, capito che dice lei. E forse avendo noi anche un sistema dell'offerta alberghiera e turistica molto frammentato, siamo meno in grado siamo dei nani rispetto... ai colossi, e quindi hai meno capacità contrattuale, perché quando uno ti dice se vuoi io ti occupo, faccio per dire, 100 stanze per 3 mesi tutti i giorni, però prendi questo offerto o niente, tu quando sei magari il singolo proprietario di quel singolo albergo hai più difficoltà a dire no per poi rischiare il bagno. Mi scrive un ascoltatore che dice che ha prenotato un villaggio direttamente, ha speso 2.800 euro, lo stesso villaggio attraverso il tour operator gli era stato offerto a 4.120 euro. Appunto, vede. Alla faccia. La risposta è questa. Chiaramente il nostro problema dell'Italia è che siamo appunto divisi e frammentati e quindi difficile. Poi uniamo il fatto che in questo momento l'Italia, appunto, noi abbiamo dati di vacanze di 4.000 in meno in partenza per quest'estate, che c'è chiaramente un momento economico difficile per tutti, e quindi alla fine c'è stata tracca, come si dice. Quindi le nostre imprese del turismo stanno soffrendo tantissimo e soffriranno quest'estate. Allora, ci sono, per correttezza dico anche che molti ascoltatori dicono che lei sta dicendo inesattezze, sì, che il costo quando si prenota online è simile a quello del booking, è più basso. Esatto, no, che è simile a quello del booking attraverso tour operator, non lo so. Dico allora, anche che ci online, sono online, e per capirci, se io prenoto online con i grandi gruppi, stiamo parlando dei grandi cosiddetti OTA, e ho un certo prezzo, tipo 70-80 euro a notte, su quel prezzo l'albergatore che si è messo là guadagna 80 euro meno il 25% che va al grande gruppo. Cioè una percentuale, mi scusi, intermediazione più alta non esiste, è altissima, cioè un costo di intermediazione. Il 25% di costo, esatto, di intermediazione. Cioè, su 70 euro il 25% sono, se fosse 24, cioè su 70 sì, euro che pago per la camera vanno sulle OTA. Le tasse del guadagno di quei 30 euro viene pagato dal paese di origine di queste OTA. E quindi magari Francia, Germania, ma non Italia. Resti con noi perché vorrei capire invece le previsioni sui flussi turistici dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Alcuni contestano quello che lei sta dicendo, dottoressa, però altri, no, adesso non posso, non so perché scrivono sms, altri invece citano casi in cui comprando direttamente l'albergo o il villaggio, altri casi, me ne sono, eccolo qua. Il tour operator 2.400 euro, andando direttamente a quell'hotel ne ha pagati 1.550. Da lei però vorrei una cosa, vorrei sapere qualcosa in più sulle previsioni che oggi avete diffuso. Meno 4 milioni di italiani in vacanza, 23 milioni e 400 mila. Dove andranno in vacanza quelli che riescono ad andarci? Allora, il problema è che andranno di più all'estero, quindi continua ad esserci un trend negativo verso l'Italia, purtroppo, anche se chiaramente una grossa quota rimarrà comunque nel nostro paese. Addirittura si parla di circa 11 milioni ad agosto e 7 milioni rimarranno a luglio in Italia, e all'estero invece 2 milioni e mezzo e 4 milioni e 8 luglio-agosto, quindi circa 7 milioni in totale. Il problema è che appunto c'è questo fatto che gli italiani che hanno meno capacità di spesa non vanno in vacanza, diminuiscono le vacanze, rimangono quelli che hanno più capacità di spesa e scelgono chiaramente mete all'estero. Quindi questo è purtroppo chiaramente no, però diciamo è nelle cose. Beh, diciamo, è nelle cose, ma scelta nelle vacanze, scegliere magari paesi più lontani o paesi che non si conoscono, è anche normale, che uno voglia anche esplorare il mondo durante le proprie vacanze. Sì, ci mancherebbe. È anche bello. No, non faccio la battuta, va bene, dai. È venerdì, la ringrazio. Grazie a Flavia Coccia, direttore operativo dell'ISNAT, che è appunto l'Istituto Nazionale di Ricerche Turistiche. Adesso cambiamo radicalmente tema perché io ogni tanto sospetto che ci siano i maestri troppo bravi, abbiano qualche scheletro nell'armadio, ce l'ho. Quello che abbiamo scoperto oggi su Deutsche Bank fa rabbrividire, altro che il Monte dei Paschi italiano, fosse vero e fosse confermato. E allora vediamo la rigorosa e teutonica Germania, che ogni tanto dorme nel controllare le sue banche. Non parliamo di Commerzbank, già quella ebbe più di un problema, ma parliamo di Deutsche Bank. Dal 2008 avrebbe concesso crediti, quindi prestato soldi, ad altre banche in forme definibili come opache, al fine di nascondere al mercato i rischi impliciti in questi prestiti. In più, il tutto è avvenuto fuori bilancio, in modo da non appesantire le attività della banca, di Deutsche Bank. Lo rivela l'agenzia di stampa Bloomberg, secondo cui tra i dossier, perché uno dice ha presto soldi a altre banche tedesche, vabbè, fatti loro, no. Perché la mano destra dice i paesi del sud Europa, Grecia, Portogallo, Italia, devono fare le riforme, se non ce la fanno non possono stare nell'euro, questo 2 anni fa. Ma la mano sinistra invece che faceva? Prestava soldi al Monte dei Paschi, e al Banco do Brasil 2,5 miliardi. A Dexia, colosso bancario franco-belga fallito e salvato dallo Stato, e poi alla National Bank of Greece e alla Hellenic Post Bank. Quindi vedi che la Grecia non fa così schifo quando c'è da prestare soldi. Sapete quanto vale la massa delle attività fuori bilancio di Deutsche Bank? Secondo Bloomberg, quasi 400 miliardi di euro, il 20% dell'attivo della banca. Ma dov'è la Bundesbank? Invece di occuparsi di fare il processo a Mario Draghi, non può controllare anche i casi suoi? Il capitale della Deutsche Bank è di soli 59 miliardi, nonostante due aumenti di capitale. Vuol dire che ogni euro di patrimonio in Deutsche Bank fronteggia quasi 30 euro di impieghi della banca. E poi siamo noi latini. Vabbò, Fabio Pavesi, prima di decollare, Fabio, dove sei? Nell'etere. Buonasera. Sto partendo, sì, vacanze meritate. Non ce ne può fregare, credo, di meno. Però dici semplicemente, ma veramente 400 miliardi fuori bilancio, fuori sacco? Sì, tra l'altro è scritto nella trimestrale di Deutsche Bank, per la prima volta hanno dovuto registrare anche le poste fuori bilancio. E su 2.000 miliardi di attivo ne avevano 400 fuori bilancio, cioè il 20% dell'attivo della banca era fuori bilancio. Questo permette sostanzialmente di tenere bassa quella leva lì che è già molto alta, cioè dicevi tu che la Deutsche ha capitale poco rispetto a quanto impiega e quindi è una banca rischiosa in sé. Ebbene, mettere fuori bilancio consentiva di tenere questa leva il più bassa possibile, ma perché se fosse stati messi a bilancio, altro che leva di 30, diventava una leva di 35. E Deutsche ha sempre avuto questo problema strutturalmente, è la banca mondiale, tra tutte le grandi banche, che ha la leva finanziaria più alta, il che vuol dire che se qualche operazione ti va male, devi svalutare l'attivo, tu rischi di annullare tutto il capitale. Deutsche ha fatto un piccolo aumento di capitale ad aprile, ma il capitale tuttora è solo di 59 miliardi, mi dicevi tu, su 2.000, e quindi quasi un'inezia. E i prestiti di fatto erano fatti con un meccanismo strano, nel senso che la banca vendeva le garanzie date dal prestatore, cioè dal creditore, sì, con la liquidità ottenuta finanziava il prestito, quindi non uscivano soldi liquidi da Deutsche Bank. C'è una sorta di alchimia contabile che permetteva a Deutsche Bank di fare prestiti a banche deboli non usando i propri soldi. Questa è l'estrema sintesi. Scusami, la Fabio, denuncia di Bloomberg, hanno lavorato su fonti interne e la banca ha detto che la ricostruzione è inaccurata, ma si è fermata lì. Ah, beh, capito, e adesso vedremo quanto scusami, questa Fabio, roba però, sarà però dimostrabile prima e quanto sarà intensa come appunto attività. Prima, però avere 400 miliardi di attivo fuori bilancio, insomma, vuol dire che tu usi le tecniche contabili per far sembrare la banca più solida di quanto in realtà sia. Questa è la situazione. Prima che tu parta per delle immeritate vacanze, mi fai capire però una cosa. La banca centrale tedesca dov'era? La Bundesbank dov'era? Perché allora se tu hai il 20% del bilancio fuori da bilancio, ma che te ne fai del bilancio alla fine? No? Sai che cosa? Che interpellati alcuni analisti da Bloomberg hanno sostenuto che queste erano transazioni fra privati, cioè erano accordi tra banca e banca, su cui anche la vigilanza in genere non mette becco, cioè non va a verificare l'accordo che hai preso con MPS, perché è un accordo fra due privati. Questa è stata la risposta data da alcuni analisti rispetto al ruolo di Bundesbank. Però noi parliamo di un sistema bancario apparentemente solido, di una nazione solida, e però abbiamo banche che usano tutte le possibilità contabili a loro disposizione per di fatto abbellire il bilancio, e questo la dice lunga sul fatto che qualche problema le grandi banche tedesche ce l'hanno anche loro. Ma chissà, adesso purtroppo devo scappare. Sì, no, vai, scappa e vedi di tornare anche, però auguri. No, auguri a uno che sta per volare, non si dice in bocca al lupo, no, ti prego. Grazie, poi, crepi. Avere Fabio Pavesi sulla coscienza, no. Allora, e a che la dice lunga però su una cosa, io sono un po' malizioso, ma la resistenza che c'è in Germania ad avere l'autorità unica bancaria, la resistenza che c'è a Berlino a consegnare alla BCE il boccino sulle prime 100 banche europee, beh, viene sospetto che forse sia dovuta anche al fatto che non si vuole che si guardi dentro alcuni conti, non so, che forse tutto deve restare così, perché ripeto, c'è Deutsche Bank, ma ci fu prima Commerzbank, c'è un piccolo problema, mi risulta, nelle casse di risparmio regionali tedesche. No, che forse qualche prestito non proprio con i criteri di Basilea 3 l'hanno dato. Allora io non so se siano i tedeschi che stanno diventando italiani o gli italiani non stanno diventando tedeschi, però insomma, prima di dare giudizi fateci capire come mai una banca può avere 400 miliardi di crediti fuori dal di attività fuori dal bilancio, un quinto dell'attivo della banca, no? Così e la banca centrale non occupasse. Ma questo potrebbe essere interessante anche per il processo a Karlsruhe contro la nostra contro la Banca Centrale Europea. Va bene, detto ciò, andiamo con il traffico e poi andiamo. Ah, c'è chi mi scrive: lei gode che la banca tedesca è in difficoltà? Sì, è in difficoltà. Ma guardi, io godo per altre cose di solito, però e non me ne frega nulla, mi dispiace, anzi Deutsche Bank è anche filiale in Italia, non godo. Dico solo che è un po' difficile continuare a essere su un piedistallo in cui dai giudizi sempre e comunque a noi, che pure abbiamo fatto tantissime cavolate e abbiamo tante cose da pagare, Monte dei Paschi in primis, ma non solo, quando hai una banca messa in questo modo che i soldi li ha prestati non all'interno della Germania ma a banche greche che diciamo di dubbia solidità allora, al Monte dei Paschi italiano, a Dexia, cioè ha fatto la lista dei peggiori istituti europei, li ha beccati tutti, Dexia, Monte dei Paschi, National Bank of Greece, Hellenic Postbank, e meno male che erano tedeschi e non italiani. Traffico. Oh, poi vediamo se qualche articolo, bisognerebbe, se fosse un paese serio, però fare anche degli articoli delle volte come hanno fatto i tedeschi verso di noi su questa vicenda della Deutsche Bank. Dovremmo dire: oh, ma che pizza e fichi non si può dire, krauti e fichi, krauti e wurster, ma che è sta roba, 400 miliardi fuori dal bilancio di una banca dopo 3 anni che ci date lezioni su tutto. No, su questo diventa una belva. Meglio che mi calmi e passiamo alla borsa con Radio Corriere Sole 24 Ore come sempre. Ceo Condina, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Sei ciao ceo, è veramente in radio non si può dire, per cui non ti dico ciao. Allora, Telecom Italia meno 4,70, Enel meno 4,70, Atlantia meno 3,60, Enel Green Power meno 3,40 come la Popolare di Milano, il 3,30 l'Operto Fondiare Sai, il 3% la Popolare Emilia Romagna, ma anche Exori, il 2,80 il calo di Autogrill, ma anche di Diasorin, il 2,5 quello di Pirelli e di Finmeccanica, il 2,20 quello di Intesa San Paolo e Terna. Chiudo con chi ha perso più del 2%, che si chiama Banco Popolare meno 2,20, Monte dei Paschi meno 2,1, Snam meno 2%. Bene invece Steam Microelectronics più 2,80, Parmalat più 1,20, Fiat più 0,40%, Eni più 0,40%. L'indice complessivo di Piazza Affari ha perso l'1,60%, facendo ben peggio rispetto al resto d'Europa. Parigi meno 0,30, Francoforte meno 0,60, Londra invariata. Lo spread di nuovo 300 punti, ma anche le tensioni su Lisbona, quindi Portogallo, hanno pesato oggi. Ciao. Eh sì, soprattutto nel primo pomeriggio, dire la verità, era una seduta che era comunque iniziata a due facce per le borse europee, quindi bene quelle, diciamo, dei paesi ancora tra virgolette forti, cioè Francia e Germania e Inghilterra, invece i listini periferici erano in negativo. Poi a partire dal primo pomeriggio, con lo spread BTP Bund che si è impennato oltre i 300 punti base, quello Spagna-Germania oltre i 330 punti base, stiamo ragionando sempre su scadenze decennali, ha visto appunto Milano e Madrid che hanno accentuato le perdite. Milano alla fine ha chiuso con una perdita del 1,5%, Madrid addirittura 2,5%, a Milano ovviamente con lo spread che aumenta cadono le banche, ma come dicevi tu cadono anche le utility penalizzate da quello che è stato il taglio del rating da parte di S&P, che dopo quello italiano ha colpito le società di fatto controllate dallo Stato e appartenenti a questo settore, cioè Enel, la sua controllata Enel Green Power, Snam e Terna. E poi giù anche Telecom Italia che perde il 4,7%, è la peggiore. Sì, la peggiore in assoluto. Allora, su RCS novità oggi, perché c'è stato un nuovo appuntamento, se ben visto, per il 31 luglio, adesso vado a memoria. Sì, ma non, diciamo, borsisticamente parlando non si è mosso nulla. Non ci sono grandi novità. Perché Seat Pagine Gialle perde il 15% sulle risparmio, il peggior titolo, Dada perde il 13,5%, Fintel Energia Group il 7,70%, sto chiaramente leggendo i migliori e i peggiori, RCS Media Group sulle risparmio, ma erano cresciute tantissimo, meno 7,5%, fronte opposto, RG Capital più 9,13%, aeroporto di Firenze più 6,14%, Daimler più 6%, ST e Mediaset. Mediaset continua comunque a mostrare una tenuta importante, meno 0,2% in una giornata che comunque è stata molto difficile per il listino milanese, in questo caso insieme a tante altre considerazioni, al fatto che il titolo con il ritorno diciamo, in campo di Silvio Berlusconi è tornato sui massimi da 2 anni, c'è anche il tema del ritorno tra virgolette della pubblicità appunto per Mediaset, che a luglio hanno annunciato recentemente i vertici del gruppo, dovrebbe mostrare un'inversione di tendenza. Per quanto riguarda S&T invece c'è quello che è il dinamismo del settore, il buon andamento appunto in borsa del settore, che oggi in tutta Europa ha guadagnato più dell'1%, ciò in virtù fondamentalmente di due cose particolari: Nokia, che è poi il principale cliente di ST, ha annunciato il lancio di un nuovo smartphone, e Microsoft invece ieri ha dichiarato che darà il via a una profonda riorganizzazione aziendale per guadagnare terreno sui concorrenti. Ancora Fiat oggi ha tenuto, comunque ha chiuso bene, vista la giornata più 0,40%. Sì, oggi c'era un buon andamento del settore auto in Europa, l'auto in Europa ha guadagnato più del 2%, c'erano anche i dati sulle vendite di Volkswagen e di Renault che rispetto a quelli di Fiat a giugno, che ha perso il 17%, sono andati molto bene. Volkswagen, tanto per cambiare, ha guadagnato ancora. Fiat veniva da 3 buone sedute nei primi 3 giorni della settimana, ieri qualche presa di beneficio, oggi comunque è tornato a spingere il titolo, anche l'attesa per un ulteriore aumento nel capitale della controllata Chrysler negli Stati Uniti. Grazie a Ciao Condina e buon fine settimana a te e a tutti i colleghi di Radio Corriere sulle 24 ore. Grazie, buon weekend a tutti. Soprattutto chi lavora. Adesso il GR, poi ragioniamo di economia italiana, paesaggio industriale italiano, che ne resterà, la morfologia produttiva di questo paese, tema diciamo di tutta la settimana, dopo il rapporto Union Camera, dopo Standard & Poor's, dopo l'assemblea ABI. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Minuti, riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Come sempre venerdì cerchiamo, oltre che di dare un racconto della giornata economico-finanziaria, anche di dare un racconto della settimana economico-finanziaria, settimana economica, e al di là dell'assemblea dell'ABI, dell'operazione sull'Europiana, di tante altre notizie che abbiamo raccontato, del declassamento al debito italiano. Tra l'altro mi aspetto, per inciso, che dopo quello che è emerso su Deutsche Bank, Standard & Poor's operi subito un declassamento della banca, perché sarebbe strano, già lo ha fatto nel passato, perché ha subito un declassamento, però insomma, se veramente ha decine di miliardi di euro non contabilizzati, 395 miliardi non messi correttamente a bilancio fino all'anno scorso, forse bisognerebbe anche provvedere a un declassamento, lo dico per essere uguali con tutti. Ma detto ciò, la settimana si è connotata anche e soprattutto per nuove grida di dolore arrivate da vari settori produttivi di questo paese. Penso alla giornata della collera del mondo delle costruzioni lunedì scorso a Milano, che poi ha avuto un secondo passaggio anche nell'assemblea annuale del Lance. 630.000 posti di lavoro persi nel mondo delle costruzioni italiane. Penso anche, eppure oggi c'è un'altra manifestazione nazionale contro il piano di riorganizzazione di Indesit Company, 1425 esuberi. Penso al fatto che vi abbiamo raccontato quanto costino gli adempimenti burocratici ogni anno alle nostre imprese, 31 miliardi di euro, con differenze abissali rispetto non alla Svezia ma alla Spagna e alla Francia. Io cito spesso l'SMS che ci è arrivato martedì dell'ascoltatore: ci ha messo 6 mesi un piccolo imprenditore a cambiare avere l'autorizzazione per cambiare l'insegna del capannone. 6 mesi, e vogliamo competere con la Cina con l'insegna a 6 mesi. Ma in realtà poi il tema di fondo resta che, ed è il seguente, che cosa ne sarà della morfologia produttiva del nostro paesaggio industriale, perché se va avanti così, noi mentre teniamo botta, cerchiamo di mettere a posto i conti, fra un po' rischiamo di svegliarci, girarci e scoprire che il paesaggio produttivo industriale di questo paese, fatto di distretti, di migliaia di piccole e medie imprese, di centinaia di multinazionali tascabili, è cambiato, ed è cambiato forse per sempre. Questa dovrebbe essere l'imperativo categorico della politica e non, diciamo, altri elementi che hanno occupato il Parlamento questa settimana. Modesto avviso. 35 imprese falliscono ogni giorno, solo quelle che dichiarano il fallimento. Praticamente ogni due ore muoiono tre imprese. Nell'arco di Focus Economia abbiamo già perso tre imprese. Nei primi 5 mesi del 2013, 5.334 imprese fallite, 280 in più rispetto ai primi 5 mesi del 2012. I settori più coinvolti: manifatturiero, 1.131 fallimenti da gennaio a maggio, il commercio dettaglio all'ingrosso, 1.200 fallimenti da gennaio a maggio, e poi l'edilizia. Il tutto mentre il governo, con varie promesse, sta cercando di iniziare a ripagare seriamente le imprese che vantano più di 100 miliardi di debiti, di crediti, con la pubblica amministrazione. Pensate che solo nel mondo delle costruzioni questi crediti ammontano a 20 miliardi. E poi la vicenda Natuzzi in Puglia, in Basilicata, la difficoltà del distretto del Bianco, vuol dire lavatrici, lavastoviglie, sono 130.000 addetti, è al secondo posto come numero di addetti in questo paese dopo il settore auto. E pensate che negli anni 90 ben il 45% della produzione del bianco venduto in Europa si faceva in Italia. Oggi solo la Indesit è rimasta di proprietà italiana. E insomma, l'appello sulla centralità del manifatturiero, io vi faccio ascoltare cosa ha detto il presidente Confindustria Squinzi. Cioè, l'impresa, ma non lo dico perché Radio 24, lo dico perché per creare occupazione non la fai assumendo nuovi impiegati pubblici, la fai permettendo alle imprese di aumentare i fatturati ordinativi e quindi di assumere, magari prima in maniera stagionale o in maniera con un contratto di collaborazione e poi in maniera definitiva. È l'unico modo per creare ricchezza in questo paese, si chiama impresa di qualunque genere, artigiana, commerciale, manifatturiera. Squinzi. Un altro risultato importante che è stato prodotto dal vertice è sicuramente il richiamo al ruolo vitale che una forte base industriale riveste per l'Unione Europea, l'importanza di un approccio ampio e coerente per una moderna politica industriale. Noi pensiamo che l'industria in Italia sia l'asset più importante della nostra economia, come lo è anche dell'economia europea, l'unica da cui in effetti può ripartire la crescita del nostro paese. Il vicepresidente Antonio Tajani della Commissione europea ha proposto nella sua comunicazione di riportare nel 2020 al 20% l'incidenza del manifatturiero sul PIL europeo. Nel nostro progetto di Confindustria noi siamo stati anche un pochettino più ambiziosi, nel senso che abbiamo posto lo stesso obiettivo per il 2018, che è la durata presunta dell'attuale legislatura. Così il presidente di Confindustria Squinzi. Certo, anche l'agricoltura crea sviluppo, mi scrive un ascoltatore, ci mancherebbe, il settore agricolo. E altri ci citano altri settori, quello della nautica. Ma insomma, io vorrei parlare con i due ospiti e capire se non sia un po' italiota la polemica l'europeana, vai francesi, per Nigotti vai turchi, però noi qualcosa abbiamo. A me che vada ai turchi o ai francesi, io vorrei che restasse il paesaggio produttivo di questo paese, che poi l'azionariato sia francese o turco mi interessa molto meno. Ringrazio Aldo Bonomi, che è editorialista del Sole 24 Ore e presidente dell'Istituto di Ricerca AST. Buonasera. Buonasera a voi. E anche Daniele Marini, che è direttore scientifico della Fondazione Nord-Est, quindi grande conoscitore dei distretti, di quella che è la regione che per antonomasia è la patria dei distretti industriali. Buonasera anche a lei. Buonasera. Buonasera a lei. Ho la voce vostra un po' bassa, vi chiedo di alzare leggermente il timbro. Bonomi, sono io che mi preoccupo per nulla sul paesaggio che resterà, paesaggio produttivo di questo paese, la morfologia che avrà il nostro territorio economico? No, senta, io i numeri che lei ha dato sono certamente non solo preoccupanti, sono anche tragici, però se voglio aggiungere preoccupazione, nell'elenco che lei ha citato, quello che più mi preoccupa non è tanto l'Oro Piana o la Pernigotti ai turchi, per capirci, che mi pare che è un problema di competizione nella globalizzazione, dentro il quale poi il mercato ovviamente ha le sue regole, dentro il quale anche le imprese italiane cercano di competere. Sono molto più preoccupato da due casi che lei ha citato, che sono il caso del salotto Natuzzi e il caso del distretto del Bianco Indesit. Perché ho l'impressione che se esaminiamo questi casi, non dimentichiamo che a Fabriano, da dove è la sede dell'Indesit, anzi direi la tana del lupo, come diceva Merloni, che è quello che ha coniato il termine che tutti quanti noi usiamo delle multinazionali tascabili, era la tana del lupo da cui partivano le multinazionali tascabili per, virgolette, competere nel mondo. Beh, non dimentichiamoci che lì nacque, come definiva Giorgio Fuà, un distretto del metal mezzadro, intendendosi che c'era una simbiosi molto forte tra una componente di radicamento territoriale e la produzione industriale, che ha poi creato anche molto spesso i nostri distretti, che tutti quanti spesso ci hanno invidiato rispetto a questo. Ho l'impressione che lì stiamo distruggendo non tanto solo il capitale economico, ovviamente disoccupazione, posti di lavoro, le imprese in crisi, ma stiamo distruggendo capitale sociale, e altrettanto vale per il distretto del Salotto di Natuzzi. Non dimentichiamoci che l'abbiamo tutti celebrato come un esempio di industrializzazione senza fratture che andava anche nel mezzogiorno del nostro paese. Quando dovevamo citare alcuni casi di successo nel mezzogiorno, non c'è dubbio che il riferimento al distretto del Mobile che andava da Matera a Bari, quella via che era come una via in cui c'era un distretto intero, era il nostro punto di riferimento. Qui ho l'impressione che stiamo distruggendo capitale sociale, e stiamo distruggendo anche il capitale sociale nell'elenco infinito che lei ha fatto delle imprese che stanno chiudendo. E faccio notare che ricostruire il capitale sociale, che significa la voglia di fare impresa, la coesione sociale di un territorio che si mette assieme e che sta assieme e che si muove, è un problema molto più complesso che semplicemente esaminare un problema di crisi finanziaria, eccetera. Perché quello che sta venendo meno è la fiducia di ricominciare a fare impresa in un contesto in cui questa cosa qui produce ovviamente Le due cose fondamentali che lei ha detto, le due parole chiave, lavoro e impresa, impresa e lavoro. Ecco, lei fa notare una cosa molto importante, Bonomi, che io ho dimenticato di dire, che il ruolo dell'impresa nel territorio è in primo luogo economico e occupazionale, ma è anche culturale, e mi spiego, cioè crei cultura di impresa, crei cultura del territorio, crei coesione sociale. Non è un ruolo solo, diciamo, dove produci, guadagni, dai degli stipendi, perché i distretti e la ricchezza che si è creata in quei distretti non ha una rilevanza solo sulla busta paga, modifica in senso culturale il territorio stesso, perché poi per gemmazione nascono altre imprese, perché poi cambia anche il modo in cui tu cerchi di puntare sull'istruzione dei tuoi figli, cioè cambia proprio la cultura del territorio. Distruggere quella cultura, lei dice, come tutti i processi culturali, ha poi dei tempi per riacquisirla lunghissimi, molto più lunghi banalmente di un investimento in un sito produttivo. Vorrei sentire su questo anche Daniele Marini, dopo il traffico, 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Minuti, leggo un sms di un ascoltatore che dice: una pecora la puoi tosare molte volte, ma la scuoi una volta sola. Ecco, è un modo più diretto per dire che una volta che tu perdi la cultura e ciò che il distretto rappresenta in termini di cultura del territorio, ricrearla, dunque ci abbiamo messo vent'anni Marini a trasformare il nord-est da terra di emigrazione, di pellagra, di polenta e sarde a gioiello dei distretti produttivi che conquistano il mondo, anche 30 anni, questo per dare i tempi e le lunghezze. Comunque vorrei sentire anche la sua opinione se rischiamo di modificare in maniera, diciamo, quasi inesorabile il nostro paesaggio industriale. Marini. Innanzitutto sottoscrivo le considerazioni che avete svolto, nel senso... La voce, io la sento, mi sì. Alzate, ma Marini, sì. Grazie, scusate. Mi senti? Sì, adesso sì. Sì. Sì, dicevo che sottoscrivo le considerazioni che avete fatto finora, cioè non c'è solo un problema di desertificazione industriale, c'è un problema anche di desertificazione delle competenze professionali, perché molta parte, buona parte delle imprese di questi territori, non solo del nord-est, di tutte le piccole e medie imprese, è fatto non soltanto da imprenditori illuminati, ma è fatto anche da competenze professionali che altro che 20 o 30 anni si depositano nei secoli le culture professionali, e quindi prima di ricostruirle ci vogliono veramente dei decenni, e quindi in questo senso la preoccupazione, diciamo così, deve essere massima. Devo anche dire nello stesso tempo che frequentando gli ambienti imprenditoriali, visitando le imprese eccetera, io colgo una grande consapevolezza di questo problema da parte degli imprenditori, cioè se vi ricordate negli anni 80 abbiamo cominciato ad assistere ai primi fenomeni di delocalizzazione, cioè di spostamento all'estero delle parti produttive a minor valore aggiunto, detto altrimenti il lavoro operaio, perché c'era il problema dei costi. Dopo quella fase abbiamo assistito e stiamo in un'altra fase, che è quella della internazionalizzazione, ovvero dell'andare a presidiare i nuovi mercati, che va assolutamente perseguita oggi, a maggior ragione se consideriamo il fatto che la nostra economia ha una domanda interna che è bassissima e quindi è necessario, tra virgolette, presidiare i mercati globali. Ecco, però oggi, soprattutto per i settori dove, diciamo, i prodotti made in Italy sono la punta di diamante delle nostre imprese, sta avvenendo un altro processo culturale, a mio modo di vedere, da parte degli stessi imprenditori, e cioè capire che la progettazione e l'ideazione dei prodotti, e cioè il fatto di tenere la testa delle imprese in Italia, oggi non è più sufficiente. C'è bisogno di unire ideazione e progettazione anche con le competenze professionali presenti sul territorio. Non è un caso, per esempio, che in diversi settori, diverse imprese che sono andate negli anni passati all'estero, non trovando le competenze tornano indietro. Questo, secondo me, è ancora un patrimonio, diciamo così, di un nucleo ristretto di imprese, ma come al solito costituiscono le avanguardie, cioè costituiscono quelli che tracciano un percorso. Allora, tenere insieme, oggi mi pare che la vera... Cioè lei dice tenere assieme i vantaggi, tra virgolette, della globalizzazione, quindi è internazionalizzato, delocalizzato, ma anche capire che alcune competenze, così come ci abbiamo messo decenni noi a crearle sul territorio, non le riesce a ricreare all'estero in maniera così veloce, quindi riportarle in Italia, ottenerle in Italia. Assolutamente. Giocare su questo doppio binario, sì. Sì, faccio solo un brevissimo esempio e termino. Il calzaturiero del Brenta. Sì. Quindi settore maturo, che cosa hanno fatto? Hanno fatto negli anni un grosso investimento da un lato nell'innovazione tecnologica, nella ricerca dei materiali, nella qualità, e nell'altro grande formazione ai lavoratori di quel territorio. Perché quando noi perdiamo le competenze professionali del fare scarpe, tanto per dirne una, che è una delle punte del Made in Italy, per esempio, è lì, prima di ricreare quelle professionalità, come diceva Bonomi prima, ci passano generazioni. Adesso per voi il compito più difficile, Bonomi, un minuto a testa per dare una speranza, cioè dove devono puntare questi imprenditori, fermo restando che se però questo paese non diventa un ambiente più favorevole all'impresa da un punto di vista burocratico, oltre che fiscale, qua possiamo fare 100 puntate su questo, ma avremo sempre la zavorra da qualche parte, al piede, diciamo. Bonomi, un minuto per dare una speranza. Beh, in un minuto la cosa è semplice. Punto per primo, un vivere. E quindi io credo che alcune cose che lei ha detto, come ad esempio pagare i debiti della pubblica amministrazione rispetto alle imprese, è fondamentale per dare un minimo di linfa vitale. Dopodiché sono d'accordo che il problema, ci sono tracce di resilienza in cui le imprese italiane stanno cercando di incorporare sapere, competenze, creatività, reti lunghe commerciali che gli permettono di reggere sul mercato. Sono tracce di evoluzione che io chiamo mettere assieme gli smanettoni, per usare questa categoria, ovviamente banalizzando, ma insomma le componenti di intelligenza con la capacità manifatturiera che noi abbiamo, e non c'è dubbio che queste tracce ci sono e sono segnale di speranza. Ma attenzione, questa speranza ha bisogno di avere intorno un contesto minimo di capitale sociale, certo, di fiducia che va mantenuto. Se questo viene meno, anche le tracce di speranza da solo non ce la fanno. Marini, un minuto anche per lei, scarso. Sì, sì, assolutamente c'è un problema di sistema paese, perché in questi anni noi abbiamo... Ma per la speranza, Marini, voglio la speranza il venerdì, 30 secondi, sì, di speranza. Sì, la speranza è prendere ad esempio queste imprese che hanno puntato su cosa? Hanno puntato sul cliente, hanno puntato sulla qualità del prodotto e hanno puntato sull'apertura ai mercati esteri, dandosi un'organizzazione di lavoro un po' più manageriale e industriale, ancorché di piccole dimensioni, e mettersi insieme per solcare i mercati internazionali e per aumentare i propri tassi di innovazione. Andrebbero prese queste come esempio, anche se non esiste una ricetta univoca per tutte le imprese, chiaramente, perché poi anche questi processi sono dei vestiti che vanno messi addosso alle singole aziende, però guardare a queste per farsi nuove idee e vedere che queste imprese sono anche quelle che stanno ottenendo dei risultati e delle performance comunque positive. Migliori. Ecco, queste due possibili, modestissime ricette in una settimana in cui oggettivamente il nostro Parlamento si è occupato di tutt'altro. Grazie Daniele Marini, grazie Aldo Bonomi, un auguro di buon fine settimana da Sebastiano Barisoni agli ascoltatori, e un invito alla classe politica a tornare sul territorio prima che il territorio arrivi da loro. Ci sentiamo lunedì. Radio 24, la passione si sente. Quoa Lean Society Forum, 19-20 novembre. Info linsenter.it. Vi ha presentato Focus Economia.